Capitolo 3. Germain, l'esperto oratore. Sì, ho qualcuno in vista, rispose papà Maurice. C'è una Léonard, vedova di un Guérin, che abita a Foch. Non conosco né la donna né il luogo, rispose Germain rassegnato ma sempre più triste. Si chiama Catherine, come la tua povera moglie. Catherine? Sì, mi farà piacere dover pronunciare quel nome, Catherine. E tuttavia, se non potrò amarla come l'altra, ciò mi addolorerà ancora di più, me la ricorderà ancora più spesso. Ti dico che la amerai, è una donna di buon carattere, di buon cuore. Non la vedo da lungo tempo, allora non era una brutta ragazza, ma non è più giovane, ha 32 anni, è di buona famiglia, tutta brava gente, possiede fino a 8 o 10.000 franchi di terre, che venderebbe volentieri per acquistarne altra nel luogo in cui si stabilirebbe. Perché anche lei ha intenzione di risposarsi e so che se il tuo carattere le convenisse, non troverebbe sfavorevole la tua posizione. Dunque avete già fissato tutto? Sì, manca il vostro parere ed è proprio questo che dovete domandare l'uno all'altra, facendo conoscenza. Il padre di quella ragazza è un mio lontano parente ed è stato mio grande amico. Lo conosci bene, papà Leonard? Sì, l'ho visto parlare con voi alle fiere e all'ultima avete pranzato insieme. È dunque di ciò che vi intrattenevate così a lungo? Probabilmente. Ti guardava vendere le tue bestie e trovava che te la cavavi bene, che eri un ragazzo di bell'aspetto, che sembravi attivo e accorto. E quando gli ho detto ciò che sei e come ti comporti bene con noi, da 8 anni che viviamo insieme, senza esserci mai scambiati una parola sgarbata o di collera, si è messo in testa di farti sposare sua figlia. Il che conviene anche a me, te lo confesso, data la buona reputazione di lei, l'onestà della sua famiglia e i buoni affari che so che intrattengono. Constato, papà Maurice, che ci tenete un bel po' i buoni affari. Sicuro che ci tengo. Non ci tieni forse anche tu? Ci tengo se lo volete, per farvi piacere, ma sapete bene che da parte mia non mi do mai pena per ciò che mi tocca o non mi tocca nei nostri profitti. Non me ne intendo di divisioni e non ho la testa data per questo tipo di cose. Conosco la terra, conosco i buoi, i cavalli, i tiri, le semenze, la trebbiatura del grano, i foraggi, per i montoni, la vigna, il giardinaggio, i profitti di minore importanza e la coltura fine. Sapete che sono compito di vostro figlio e che io non me ne occupo molto. Quanto al denaro, ho la memoria corta e preferirei cedere tutto piuttosto che litigare sul tuo e il mio. Avrei paura di sbagliarmi, di reclamare ciò che non mi è dovuto, e se gli affari non fossero semplici e chiari. Non mi ci ritroverei mai. Tanto peggio, figlio mio. Ed ecco perché desidererei che tu avessi una donna con la testa sulle spalle per sostituirmi quando non ci sarò più. Non hai mai voluto vedere chiaro nei nostri conti e ciò potrebbe causarti dei fastidi con mio figlio, quando non avrete più me per mettervi d'accordo e dirvi quel che tocca a ciascuno. Spero proprio che viviate a lungo, papà Maurice, ma non preoccupatevi di ciò che vi lascerete alle spalle. Non litigherò mai con vostro figlio. Mi fido di Jacques come di voi stesso e siccome non possiedo beni, che tutto quello che può toccarmi proviene da vostra figlia e appartiene ai nostri figli, posso stare tranquillo. E anche voi. Jacques non vorrebbe mai privare i figli di sua sorella a vantaggio dei propri, perché li ama quasi come se fossero suoi. Parole giuste, Germain. Jacques è un bravo figlio, un buon fratello e un uomo che ama la verità. Ma Jacques può morire prima di te. Prima che i vostri figli siano educati, e bisogna sempre fare in modo in una famiglia di non lasciare dei minorenni senza un capo che li consigli per il meglio e che risolva le loro controversie. Altrimenti gli uomini di legge se ne immischiano, li mettono in discordia e fanno sì che si mangino tutti i beni in procedure legali. Così dunque non dobbiamo pensare di far entrare in casa una persona in più, sia uomo che donna, senza tenere presente che un giorno questa persona dovrà forse dirigere gli affari di una trentina di figli, nipoti, generi e nuore. Non si sa quanto una famiglia possa crescere e quando l'alveare è troppo pieno, quando bisogna sciamare, ciascuno pensa a portar via il suo miele. Quando ti ho preso come genero, sebbene mia figlia fosse ricca e tu povero, non le ho rimproverato di averti scelto. Ti vedevo buon lavoratore e sapevo bene che la migliore ricchezza per gente di campagna come noi è un paio di braccia e un cuore come i tuoi. Quando un uomo porta questo in una famiglia, porta già abbastanza. Ma per una donna è differente. Il suo lavoro in casa è buono per conservare, non per produrre. D'altronde, adesso che sei padre che cerchi moglie, bisogna pensare che i tuoi nuovi figli, non avendo niente da pretendere nell'eredità di quelli del primo letto, si troverebbero nella miseria in caso che tu morissi, a meno che tua moglie non abbia dei beni propri. E poi mantenere i bambini con i quali aumenterai la nostra grande famiglia costerà qualcosa. Se ciò ricadesse solo sulle nostre spalle, li nutriremmo certamente e senza lamentarcene. Ma il benessere di tutti ne sarebbe diminuito e i primi figli avrebbero la loro parte di privazione in seguito a ciò. Quando le famiglie aumentano oltre misura, senza che la ricchezza aumenti in proporzione, viene la miseria, per quanto coraggio si abbia. Ecco le mie riflessioni, Germaine. Pensaci su e prova a farti gradire la vedova Guérin, perché la sua buona condotta e il suo denaro ci saranno di aiuto nel presente e ci daranno tranquillità per l'avvenire. Avete ragione, padre, d'accordo. Cercherò di piacerle e di farmela piacere. Per questo è necessario vederla e andare a trovarla. A casa sua, a Foch. È lontano da qui, non è vero? E non abbiamo molto tempo in questa stagione. Quando si tratta di un matrimonio d'amore, bisogna aspettarsi di perdere del tempo. Ma quando si tratta di un matrimonio dettato dalla ragione, tra due persone che non hanno grilli per la testa e sanno cosa vogliono, si fa presto a concludere. Ci andrai domani che è sabato. La tua giornata di lavoro sarà un po' più corta. Partirai verso le 2 dopo pranzo. Sarai a Foch di notte. Adesso c'è la luna piena, i sentieri sono buoni e non ci sono più di 3 leghe. È vicino a Magnier, dall'altra parte, prenderai la giumenta. Andrei anche a piedi, con questo tempo fresco. Sì, ma la giumenta è bella e un pretendente che arriva con un così bel cavallo fa tutta un'altra figura. Ti metterai gli abiti nuovi e porterai in dono a papà Leonard della bella selvaggina. Arriverai mandato da me, converserai con lui, passerai la giornata di domenica con sua figlia e ritornerai con un sì o no lunedì mattina. Inteso, rispose tranquillamente Germain, e tuttavia non era affatto tranquillo. Germain aveva sempre vissuto saggiamente come vivono i contadini laboriosi. Sposatosi a 20 anni, aveva amato una sola donna nella sua vita. E da quando era rimasto vedovo, sebbene fosse di carattere impetuoso e allegro, non aveva riso e folleggiato con nessun'altra. Aveva portato fedelmente in cuore un autentico dolore e non era senza paura e senza tristezza che ora cedeva al suocero. Ma costui aveva sempre guidato saggiamente la famiglia e Germain, che si era votato interamente all'opera comune e di conseguenza a colui che la personificava, cioè Papa Maurice, non comprendeva che avrebbe potuto ribellarsi a delle buone ragioni, all'interesse di tutti. Tuttavia era triste. C'erano pochi giorni in cui non piangesse sua moglie in segreto e sebbene la solitudine cominciasse a pesargli, aveva più paura di formare una nuova unione di quanto desiderasse sottrarsi al proprio dolore. Si diceva vagamente che l'amore avrebbe potuto consolarlo, prendendola alla sprovvista, perché l'amore non consola altrimenti. Non lo si trova quando lo si cerca. Viene a noi quando non l'attendiamo. Quel freddo progetto di matrimonio che gli proponeva papà Maurice, quella fidanzata sconosciuta, forse anche tutto quel bene che gli si diceva della sua saggezza e della sua virtù, tutto ciò lo preoccupava. E se ne andò riflettendo, come riflettono gli uomini che non hanno abbastanza idee perché queste siano discordi le une con le altre, cioè non formulando a se stesso buone ragioni di resistenza e di egoismo, ma soffrendo di un dolore sordo e non lottando contro un male che bisognava accettare. Intanto papà Maurice era rientrato alla fattoria, mentre Germain, nel momento che va dal tramonto del sole alla notte assoluta, occupava l'ultima ora del giorno a chiudere le brecce fatte dalle pecore in un recinto accanto agli edifici. Rialzava gli steli spinosi e li sosteneva con delle zolle di terra, mentre i tordi cinguettavano nel cespuglio vicino e sembravano gridargli di affrettarsi, curiosi com'erano di venire a esaminare il suo lavoro non appena lui se ne fosse andato. Capitolo 4. La Guillette. Papà Maurice trovò a casa propria una vecchia vicina che era venuta a chiacchierare con sua moglie, cercando delle brace per accendere il fuoco. Mamma Guillette abitava in una casetta con il tetto di paglia, molto misera, a un tiro di schioppo dalla fattoria, ma era una donna ordinata e piena di volontà. La sua povera casa era pulita e ben tenuta e i suoi vestiti rattoppati con cura annunciavano il rispetto di se stessa nel bel mezzo della miseria. «Siete venuto a cercare del fuoco per la sera? Mamma Guillette?» le chiese il vecchio. «Volete qualcos'altro?» «No, papà Maurice», rispose lei, Niente per il momento. Non sono in fortuna, lo sapete, e non abuso della bontà dei miei amici. È la verità? Così i vostri amici sono sempre pronti a rendervi servizio. Stavo chiacchierando con vostra moglie e le domandavo se Germaine si decideva finalmente a risposarsi. Voi non siete una chiacchierona, rispose papà Maurice. Si può parlare davanti a voi senza temere pettegolezzi. Così dirò a mia moglie e a voi che Germain è completamente deciso. Parte domani per il podere di Forges. Finalmente! Esclamò con vivacità mamma Maurice. Quel povero ragazzo. Dio voglia che trovi una donna buona e onesta quanto lui. Ah, va a Forges? Osservò la Guillette. Guardate come capita a proposito. Questo mi fa molto comodo. E siccome poco fa mi avete chiesto se desideravo qualcosa, vi dirò, papà Maurice, in cosa potete farmi una cortesia? Dite, dite, farvi una cortesia è un piacere per noi. Vorrei che Germaine si prendesse la pena di portare mia figlia con sé. A dove? A Foch. Non a Foch, ma a Ormeaux, dove starà per il resto dell'anno. Come? Disse mamma Maurice. Vi separate da vostra figlia. Bisogna bene che vada a servizio e che guadagni qualcosa. La cosa mi addolora alquanto e anche a lei, la poverina. Non abbiamo potuto deciderci a lasciarci all'epoca della festa di Saint-Jean, ma ecco che arriva quella di Saint-Martin e che lei trova un buon posto di pastorella nelle fattorie di Ormeaux. Il fattore passava l'altro giorno da queste parti, tornando dalla fiera, vide la mia piccola Marie che custodiva le sue tre pecore sul terreno del comune. Non siete molto occupata, piccola mia, le disse. Le tre pecore per una pastora non sono un granché. Volete custodirne 100? Vi porto con me. Da noi la pastora si è ammalata e torna dai suoi genitori. Se volete venire da noi prima di 8 giorni, avrete 50 franchi per il resto dell'anno fino alla festa di Saint-Jean. La mia bambina ha rifiutato, ma non ha potuto fare a meno di rifletterci su e di dirmelo quando, rincasando la sera, mi ha vista triste e preoccupata su come passare l'inverno, che si preannuncia duro e lungo, dato che quest'anno si sono viste le gru e le oche selvatiche passare un buon mese in anticipo rispetto al solito. Abbiamo pianto tutte e due, ma infine il coraggio ci è venuto. Ci siamo dette che non potevamo restare insieme. Perché c'è appena di che far vivere una sola persona sul nostro pezzo di terra e dato che Marie è in età adulta, ecco che ha quasi 16 anni, bisogna bene che faccia come gli altri, che guadagni il suo pane e che aiuti la sua povera madre. Mamma Guillette, disse il vecchio oratore, se non bastassero che 50 franchi per consolarvi delle vostre pene ed evitarvi di mandare vostra figlia così lontano, ve li farei trovare io, sebbene 50 franchi per gente come noi comincino a pesare, ma in tutte le cose bisogna consultare la ragione quanto l'amicizia. Per salvarvi dalla miseria di questo inverno non bisogna attendere oltre. E più vostra figlia tarderà a prendere una decisione, più sia lei che voi soffrirete nel separarvi. La piccola Marie si fa grande e forte e non ha di che occuparsi a casa vostra. Potrebbe prendere l'abitudine della fannullaggine. Per questo non ho timori. E ribatté la Guillette. Marie è molto coraggiosa e intelligente. Non resta un attimo con le braccia incrociate. E quando non abbiamo lavoro, pulisce e sfrega i nostri poveri mobili rendendoli lucidi come specchi. È una bambina che vale oro quanto pesa. E avrei di gran lunga preferito che entrasse da voi come pastora piuttosto che andare così lontano da gente che non conosco. Voi l'avreste presa alla festa di Saint-Jean se avessimo saputo metterci d'accordo, ma adesso avete già assunto chi vi serve. E sarà solo a Saint-Jean dell'anno prossimo che potremo ripensarci. Consento con tutto il cuore, Guillette. Ciò mi farà piacere. Ma nel frattempo la ragazza farà bene ad apprendere un mestiere ed abituarsi a servire gli altri. Sì, certamente, la decisione è presa irrevocabilmente. Il fattore di Ormeaux l'ha fatta chiamare stamattina. Abbiamo detto di sì e bisogna che parta. Ma la povera piccola non conosce la strada e non mi andrebbe di mandarla così lontano tutta sola. Poiché il vostro genero va a Forges domani, potrebbe portarla con sé. Sembra che sia proprio vicino a dove va lei, stando a ciò che mi hanno detto. Perché non l'ho mai fatto io quel viaggio. È proprio vicinissimo a dove va lui e il mio genero la condurrà. È dovuto. Potrà persino prenderla in groppa sulla giumenta, il che le farà risparmiare le suole delle scarpe. Eccolo che era in casa per la cena. «Dimmi, Germaine, la piccola Marie, la figlia di mamma Guillette, se ne va a fare la pastora a Ormeaux. La condurrai sul tuo cavallo, vero?» «Va bene», rispose Germaine, che era preoccupato, ma sempre disposto a rendere servizio al suo prossimo. Nel nostro mondo non verrebbe mai un simile pensiero a una madre, cioè quello di affidare una figlia di 16 anni a un uomo di 28, perché Germaine non aveva che 28 anni e sebbene secondo le idee del suo paese passasse per un vecchio dal punto di vista del matrimonio, era ancora il più bell'uomo del luogo. Il lavoro non l'aveva abbattuto né avvizzito, come invece capita alla maggior parte dei contadini che hanno alle spalle 10 anni di aratura. Era abbastanza forte per lavorare ancora 10 anni senza sembrare vecchio e sarebbe stato necessario che il pregiudizio dell'età fosse molto radicato nella mente di una ragazza per impedirle di vedere che Germaine aveva un bel colorito, l'occhio vivo azzurro come il cielo di maggio, la bocca rosa, denti superbi, il corpo elegante e agile come quello di un puledro che non ha ancora lasciato il pascolo. Ma la castità dei costumi è una tradizione sacra in certe campagne lontane dal movimento corrotto delle grandi città. E fra tutte le famiglie di Bel Air, quella di Maurice era ritenuta onesta e a servizio della verità. Germaine se ne andava a cercare moglie. Marie era una ragazzetta troppo giovane e troppo povera perché lui pensasse a lei in quel senso e a meno d'essere senza cuore un cattivo soggetto, era impossibile che avesse un pensiero poco innocente nei confronti di lei. Papà Maurice non fu dunque per niente preoccupato nel vederlo far salire sulla propria cavalcatura quella graziosa ragazza. La Guillette avrebbe creduto di offenderlo, raccomandandogli di rispettare sua figlia come una sorella. Marie montò sulla giumenta piangendo dopo aver baciato 20 volte la madre e le sue giovani amiche. Germaine, che era triste di per sé, comprendeva ancora di più la pena di lei. E se ne andò con aria seria, mentre la gente del vicinato salutava con la mano la povera Marie, senza pensare nulla di male. Capitolo 5. Petit Pierre. La Grise era giovane, bella e vigorosa. Portava senza sforzo il suo doppio fardello, abbassando le orecchie e mordendo il freno da quella fiera e ardente giumenta che era. Passando davanti al pascolo, scorse sua madre, che si chiamava la vecchia Grise, come lei era la giovane Grise, e nitrì in segno d'addio. La vecchia Grise si avvicinò alla siepe facendo risuonare i suoi zoccoli, cercò di galoppare sul margine del prato per seguire la figlia. Poi, vedendola prendere il gran trotto, Nitrì a sua volta rimase pensosa e inquieta, con il muso al vento, la bocca piena d'erba che dimenticava di mangiare. «Quella povera bestia conosce bene la sua prole», disse Germaine per distrarre la piccola Marie dal suo dolore. «Questo mi fa pensare che io non ho baciato il mio Petit Pierre prima di partire. Il mascalzoncello non c'era. Ieri sera voleva farmi promettere di portarlo con me e ha pianto per un'ora nel suo letto. Stamattina ancora ha fatto di tutto per convincermi. Oh, com'è abile e carezzevole. Ma quando ha visto che ciò che voleva non era possibile, il signorino si è arrabbiato, è scappato nei campi e non l'ho più rivisto per tutta la giornata». «Io l'ho visto», disse la piccola Marie facendo uno sforzo per ingoiare le lacrime. «Correva con i bambini di Solà, dalla parte del bosco ceduo. E ho proprio immaginato che fosse fuori di casa da molto tempo, perché aveva fame, mangiava delle susine selvatiche e delle more di rovo. Gli ho dato il pane della mia merenda e lui mi ha detto: «Grazie, mia Marie carina, quando verrai da noi ti darò della focaccia». È un bambino veramente grazioso che avete, Germaine. «Sì, è davvero grazioso», riprese l'aratore, «e non so cosa non farai per lui. Se sua nonna non fosse stata più ragionevole di me, non avrei potuto trattenermi dal portarlo con me, quando lo vedevo piangere così forte che il suo povero cuoricino pareva scoppiare». «Ebbene, perché non l'avete portato con voi? Non ci avrebbe mica dato fastidio? È così ragionevole quando lo si accontenta». «Pare che sarebbe stato di troppo laddove sto andando. Perlomeno questo è il parere di papà Maurice. Io tuttavia avrei pensato che al contrario bisognava vedere come lo avrebbero ricevuto e che un bambino così gentile non poteva che essere preso in simpatia. Ma loro dicono a casa che non è bene cominciare con il far vedere il peso della famiglia. Non so perché ti parlo di queste cose, piccola Marie. Tu non ci capisci niente». «Invece sì che capisco, Germaine. So che state per sposarvi, mia madre me l'ha detto, raccontandomi di non parlarne a nessuno, né in casa né là dove vado. E voi potete star tranquillo, non dirò una parola. Farai bene, perché non è cosa fatta. Forse non converrò alla donna in questione. Bisogna sperare di sì, Germaine, perché dunque non dovreste andarle bene. Chissà, ho 3 figli ed è pesante per una donna che non è la loro madre. È vero, ma i vostri figli non sono come tutti gli altri. Lo credi? Sono belli come degli angeletti e così ben educati che non si può vederne di più piacevoli. C'è Sylvain che non è troppo facile. È piccolino ed è naturale che sia terribile, ma è molto sveglio. È vero che è sveglio e così coraggioso. Non ha paura né di mucche né di tori. E se lo si lasciasse fare, si arrampicherebbe già sui cavalli con il suo fratello maggiore. Che io al vostro posto avrei portato il più grande. Davvero, vi avrebbe fatto amare subito per il semplice motivo di avere un bambino così bello. Sì, se la donna ama i bambini, ma in caso contrario, ci sono delle donne che non amano i bambini. Non molte, penso, ma ce ne sono, ed è questo che mi tormenta. Non la conoscete dunque affatto, questa donna? Non più di quanto la conosca tu, e temo che non la conoscerò meglio una volta che l'avrò vista. Non sono diffidente io. Quando mi si dicono delle buone parole ci credo, ma più volte mi sono trovato a dovermene pentire perché le parole non sono azioni. Si dice che sia una donna molto brava. Chi lo dice? Papà Maurice? Sì, vostro suocero. Già, ma non la conosce neanche lui. Ebbene, ma fra poco la vedrete. Farete molta attenzione e c'è da sperare che vi sbagliate, caro Germain. Guarda, piccola Marie, mi piacerebbe che tu entrassi un po' in casa sua prima di andare a Dormeau. Sei accorta, tu hai sempre dimostrato di essere ragionevole e fai attenzione a tutto. Se vedi qualcosa che ti dà da pensare, me ne avvertirai piano piano. Oh no, Germaine, non lo farò. Avrei troppa paura di sbagliarmi. E d'altra parte, se una parola detta alla leggera vi cogliesse la voglia di fare questo matrimonio, i vostri suoceri me ne vorrebbero e io ho già abbastanza pene così, senza tirarmene altre su quella povera e cara donna di mia madre. Mentre conversavano così, la Grise fece un balzo raddrizzando le orecchie, poi tornò sui suoi passi e si riavvicinò al rovo dove qualche cosa che ora cominciava a riconoscere l'aveva inizialmente spaventata. Germaine lanciò uno sguardo al rovo e vide nel fossato, sotto i rami spessi ancora freschi di una quercia, qualcosa che scambiò per un agnellino. «È una bestia smarrita», disse lui, «o morta, perché non si muove. Può darsi che qualcuno la cerchi. Bisogna vedere di cosa si tratta». «Non è una bestia», esclamò la piccola Marie. «È un bambino che dorme. È il vostro Petit Pierre». «Questa poi», disse Germain scendendo da cavallo. «Guardate questo discolo dove dorme, così lontano da casa in un fossato dove potrebbe arrivare un serpente». Prese fra le braccia il bambino, che gli sorrise aprendo gli occhi, gli si gettò le braccia al collo dicendogli «Paparino, mi porterai con te?» «Oh, sempre la stessa storia. Cosa facevi là, cattivo Pierre?» Aspettavo che il mio paparino passasse, disse il bambino. Guardavo sul sentiero e a forza di guardare mi sono addormentato. E se fossi passato senza vederti, saresti rimasto fuori per tutta la notte e il lupo ti avrebbe mangiato. Sapevo bene che mi avresti visto, rispose Petit Pierre con aria di chi ha fiducia. Ebbene, adesso, mio piccolo Pierre, abbracciami, salutami e torna subito a casa se non vuoi che si ceni senza di te. Non vuoi dunque portarmi con te? Gridò il piccolo, cominciando a strofinarsi gli occhi per mostrare che aveva intenzione di piangere. Sai bene che il nonno e la nonna non lo vogliono, disse Germain, trincerandosi dietro l'autorità dei vecchi suoceri come un uomo che non conti affatto sulla propria. Ma il bambino non intese nulla. Cominciò a piangere sul serio, dicendo che, dato che suo padre portava con sé la piccola Marie, poteva ben portare anche lui. Gli fu obiettato che bisognava attraversare i grandi boschi dove c'erano molte bestie malvagie che mangiavano i bambini piccoli, che la Grise non voleva portare 3 persone, come aveva dichiarato partendo, e che nel paese dove ci si recava non c'erano né letto né cena per i marmocchi. Tutte queste ragioni eccellenti non persuasero affatto Petit Pierre. Si buttò sull'erba e vi si rotolò, gridando che il suo paparino non gli voleva più bene e che se non l'avesse portato con sé lui non sarebbe rincasato per tutto il giorno e la notte. Germain aveva un cuore di padre, tenero e debole come quello di una donna. La morte della sua, le cure che era stato obbligato a prestare da sola ai suoi figli e il pensiero che quei poveri bambini senza madre avevano bisogno di essere molto amati, avevano contribuito a renderlo così. E lui si svolse una battaglia così dura, tanto più che arrossiva per la propria debolezza e si sforzava di celare il proprio disagio alla piccola Marie, che la fronte gli si imperlò di sudore e gli occhi gli si orlarono di rosso, pronti a piangere come quelli del bambino. Infine cercò di incolerirsi, ma voltandosi verso la piccola Marie, come per prenderla a testimone della sua fermezza d'animo, vide che il viso di quella buona ragazza era inondato di lacrime e tutto il suo coraggio lo abbandonò. Gli fu impossibile trattenere le sue, sebbene brontolasse e minacciasse ancora. «È vero, avete il cuore troppo duro», disse infine la piccola Marie. «E da parte mia non potrei mai resistere così a un bambino che ha un dispiacere tanto grosso. Su, Germain, portatelo con voi. La vostra giumenta è ben abituata a portare due persone e un bambino. Ne è la prova il fatto che vostro cognato e sua moglie, che è molto più pesante di me, vanno al mercato al sabato con il loro ragazzino, tutte e tre in groppa a questa brava bestia. Lo metterete davanti a voi e d'altra parte io preferisco andarmene tutta sola a piedi piuttosto che addolorare questo piccolo». «Così non va», rispose Germain, che moriva dalla voglia di lasciarsi convincere. «La Grise è forte e ne potrebbe portare anche due in più se ci fosse spazio sulla sua schiena. Ma cosa faremo di questo bambino durante il tragitto? Avrà freddo, avrà fame. E chi si prenderà cura di lui questa sera e domani per metterlo a dormire, lavarlo e vestirlo? Non oso dare tale noia a una donna che non conosco e che troverà senza dubbio che sono ben maleducato con lei già dall'inizio. Dall'amicizia o la contrarietà che lei dimostrerà, voi la conoscerete subito, Germain, credetemi. E d'altronde, se lei respingerà il vostro Pierre, sarò io a occuparmene. Andrò da lei a vestirlo e lo porterò nei campi domani. Lo farò divertire per tutta la giornata e farò in modo che non gli manchi nulla. E ti darà fastidio, mia povera ragazza, ti recherà noia. È lunga una giornata intera. Mi farà piacere, invece. Mi terrà compagnia e mi renderà meno triste il primo giorno che dovrò passare in un nuovo paese. Mi sembrerà di essere ancora da noi». Il bambino, vedendo che la piccola Marie prendeva le sue parti, si era aggrappato alla sua sottana e la teneva così forte che gli avrebbero fatto male strappandovelo. Quando si rese conto che suo padre cedeva, prese quella di Marie nelle sue piccole mani scurite dal sole e la baciò saltando di gioia e tirandola verso la giumenta, con quell'ardente impazienza che tutti i bambini mettono nei loro desideri. «Andiamo, coraggio!» disse la giovane sollevandolo fra le braccia. «Cerchiamo di calmare questo povero cuore che salta come un uccellino e se avrai freddo al giungere della notte, dimmelo, mio piccolo Pierre, ti stringerò sotto il mio mantello. Abbraccia il tuo paparino e chiedigli scusa per aver fatto il cattivo. Di che questo non accadrà più, mai, capito?» «Sì, sì, a condizione che io faccia sempre la sua volontà, non è vero?» disse Germain asciugando gli occhi del piccolo con il suo fazzoletto. «Ah, Marie, me lo vizi questo bricconcello. E veramente sei una ragazza troppo buona, piccola Marie. Non so perché non sei venuta a casa nostra come pastorella all'ultima festa di Saint-Jean. Ti saresti presa cura dei miei bambini e avrei preferito pagarti bene per accudirli piuttosto che andare a cercare una moglie che crederà forse di concedermi una grazia non detestandoli». «Non bisogna vedere le cose in questo modo», rispose la piccola Marie tenendo la briglia del cavallo mentre Germain piazzava il figlio sul davanti del largo basto guarnito di pellame di capra. «Se vostra moglie non ama i bambini, vi prenderete a servizio l'anno prossimo e statene pur tranquillo. Li divertirò così bene che non si accorgeranno di nulla».